Stavo per iniziare questa puntata facendovi ascoltare una registrazione di un contenuto sessuale. Poi però ci ho ripensato, non solo perché probabilmente il mio podcast sarebbe stato sbattuto fuori da piattaforme come Spotify e Spreaker, ma soprattutto perché in qualche modo vi avrei sottoposto a una violenza. Oggi parliamo proprio di questo, gli audio introdotti su Twitter e tutti i problemi che si portano dietro. Lo scorso giugno Twitter ha annunciato una nuova funzionalità per i dispositivi Apple, messaggi audio da registrare direttamente nell'app e twittare. Ogni tweet vocale ha una durata di 140 secondi, se la supera, Twitter crea in automatico un thread con vari spezzoni sonori. Di recente Twitter ha iniziato a sperimentare questa funzionalità anche nei messaggi privati, quindi c'è la stessa identica interfaccia, tasto play, tasto pausa, più un'icona dell'avatar che pulsa mentre si ascolta l'audio. C'è anche un tasto per segnalare il messaggio, quindi nel caso in cui si ricevono audio indesiderati. Se molte persone hanno già storto il naso per questa nuova funzione, specie chi odia i messaggi vocali a prescindere dal tipo di piattaforma, quindi è curioso perché questo podcast è pensato per essere un lungo e tedioso messaggio vocale, ma comunque molta più attenzione dobbiamo rivolgere invece a tutto ciò che manca nella fase di progettazione di questi tweet sonori. La prima questione, criticata aspramente, riguarda l'accessibilità. Twitter non aveva un team che si occupa di accessibilità, quindi nessuno ha pensato a garantire che ci fossero dei sottotitoli per gli audio, in modo che le persone affette da disfunzioni dell'apparato uditivo potessero comunque leggere gli audio. Gli unici che si occupavano di accessibilità erano un paio di dipendenti che lo facevano come volontari. Le scuse di Twitter sono arrivate subito puntuali, ma hanno peggiorato la situazione. Un portavoce ha dichiarato a The Verge che gli audio sono una funzionalità di test, ancora in fase iniziale di esplorazione. Peccato che questa toppa ha fatto incazzare tutti di nuovo. L'accessibilità deve essere infatti tenuta in considerazione sin dalle fasi iniziali di sviluppo, non deve essere il tocco di rifinitura finale. Io però in apertura vi avevo parlato di un contenuto sessuale in forma audio. Dove è finito? Che c'entra in questa storia? Sotto il messaggio di Twitter in cui venivano annunciati questi tweet audio, un utente ha risposto con un audio porno. Questo è uno dei temi centrali sulla moderazione dei contenuti online. Cosa prevede di fare Twitter con registrazioni audio che possono includere anche la violenza, o quelle che riguardano invece la tortura o il linguaggio d'odio? Al momento sembra che Twitter non abbia chiarito bene come intenda procedere con la moderazione degli audio. Però alcuni problemi sono ben evidenti. Casey Fisler, assistant professor alla University of Colorado Boulder, ha sottolineato in una serie di tweet tutti i problemi legati agli audio sulle piattaforme digitali. Problemi che ci sono, ad esempio, anche nelle chat di gioco della PlayStation o sui canali di Discord. In generale, su Twitter si possono indicare i contenuti per adulti come sensitive e quindi vengono nascosti dietro un banner su cui si può cliccare. Per quell'audio, però, questo non è avvenuto. Inoltre, lei ricorda che sicuramente dovremmo attenderci che qualcuno scopra l'equivalente della graphic violence in versione audio. Quindi audio che sono effettivamente violenti da ascoltare. Per non parlare poi magari del disturbo che può creare ascoltare particolari tipi di suoni e rumori all'improvviso. Pensiamo a grida acute in orecchio. Se lo facessi ora mi verreste a prendere a ceffoni in casa molto probabilmente. E invece per quanto riguarda audio non consensuali, siamo tutti tristemente abituati ad account Instagram dove si raccolgono foto di persone ignare mentre non fanno altro che vivere le proprie vite in tranquillità. Rischiamo di trovarci lo stesso fenomeno in versione audio anche su Twitter. Inoltre, l'audio è intrinsecamente diverso dal video, anche per quanto riguarda le aspettative. Dall'anteprima di un video posso capire grosso modo cosa c'è. Dietro un tasto play, però, non potrò mai capire cosa sto per ascoltare. E questo problema si riflette drammaticamente su chi si troverà a dover ascoltare quegli audio per moderarne i contenuti. Sperare in un software in grado di trasformare l'audio in testo è fuori portata. Ci sono diversi studi e applicazioni, ma la tecnologia, come in molti altri casi, non è all'altezza e non è detto che possa arrivare ad esserlo in tempi brevi, oltre ovviamente a non essere l'unica soluzione necessaria. Sistemi di conversione audio-testo già esistono, però danno dei risultati scadenti. Diciamo che funzionano quando cerchi di trasformare una sbobinatura in un'intervista che ha pochissimo rumore di fondo. Però figuriamoci quello che può sputar fuori quando ci sono degli audio creati ad hoc, con lo scopo appunto di magari far male o arrecare danni all'ascoltatore. quindi siamo nella situazione in cui non ci resta che sperare che migliaia di moderatori si mettano lì ad ascoltare i nostri tweet audio senza alcuna possibilità di sapere in anticipo cosa stanno ascoltando e quindi con il rischio di avere anche conseguenze gravi sulla propria salute psicofisica. Questi tra l'altro sono dei problemi che la moderazione dei contenuti e quindi i moderatori già devono affrontare per quanto riguarda i video. La storia di questa nuova feature degli audio su Twitter è chiaramente sintomatica della memoria corta degli ingegneri della Silicon Valley. Era prevedibile che si sarebbe creato un problema di moderazione, ma sembra che non ci abbiano pensato. Era palese che gli audio si sarebbero trasformati in un problema di accessibilità al mezzo per una parte della popolazione mondiale, ma tutti se ne sono sbattuti. La Silicon Valley e gli ingegneri non cambieranno mai.